Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano. Buongiorno a tutti per questo lunedì 28 ottobre, giornata chiaramente dedicata alla riflessione dopo le elezioni in Umbria, che hanno visto la vittoria alla larga del centrodestra con il 57,5% della candidata di Tesei, quella di Salvini. Segue il centro-sinistra col 37,5% di Bianconi, poi il centro con 2,6% con Ricci e la sinistra l'1% con Rubicondi. Quindi dati che chiaramente faranno parlare e che parlano anche questa mattina sui giornali, ma noi subito ascoltiamo Radio Bullet, buon ascolto. Buongiorno e benvenuti nell'appuntamento del notiziario in genere di Radio Bullets. Questi i titoli di oggi. Le storie di Čiček, Brady, Tiffany, Elizabeth e Angela a cura di Lena Maggiaro e con la voce al microfono di Barbara Schiavulli. But oh girl, I forgot to be a lover. If it wasn't for the 9-to-5 doubled up overtime, then I couldn't remember. If it wasn't for the Sunday All-Star weekend game, girl, I couldn't remember. And if it wasn't for the dough, the 50 Jesus show, girl, you know that. La prima storia parla di Čiček Kobane, la combattente curda nelle mani delle milizie filo Erdogan. L'esponente delle YPG è stata ferita e catturata dopo il cessate il fuoco ad Ain al-Issa. In rete il video gira degli stessi mercenari al servizio della Turchia che minacciano di giustiziarla. La Confederazione di Donne Congreia Star ha condannato con forza la cattura della combattente YPG Čiček Kobane e chiede la sua immediata liberazione. Nei video diffusi dai suoi sequestratori islamisti viene annunciata la sua esecuzione. Il coordinamento Rojava della Confederazione di Donne Curde Congreia Star si è rivolto all'opinione pubblica con una dichiarazione sulla cattura della combattente da parte di islamisti in Siria del Nord. Si presume che la combattente nel villaggio di Mesrefa presso Ain Issa il 21 ottobre ferita sia caduta nella prigionia della milizia jihadista Akhrar al-Sham, battaglione Darat Izza, al fianco del partner NATO Turchia e del suo cosiddetto esercito nazionale siriano. Prende parte all'invasione del Rojava in violazione della legalità internazionale, si regge su rete Kurdistan Italia. Sui social media sono comparsi video della cattura di Čiček, nei quali viene annunciata l'esecuzione della combattente. Il Kongreya Star chiede un'immediata presa di posizione del governo turco. È noto che la guerra di occupazione dello Stato turco e delle sue milizie è rivolta contro tutti i popoli della Siria nel nord e dell'est, si legge nella dichiarazione. Nonostante il cessato il fuoco deciso, continuano gli attacchi. Insieme a questi violenti attacchi, in nome dell'operazione Fonte di Pace, vengono commessi crimini di guerra rivolti contro i civili e bambini. Inoltre, lo Stato turco, nelle sue brutali attacchi, usa armi chimiche come il fosforo, commette crimini contro l'umanità e viola qualsiasi norma del diritto internazionale. Čiček Kobane, si legge, ancora ferita, una gamba, sarebbe prigioniera di milizie legate alla Turchia, che in Rojava vengono commesse violazioni dei diritti umani, crimini di guerra da parte di alleati estremisti della Turchia. Si è saputo anche recentemente con lo scempio fatto del cadavere della combattente YPG Amara Renas e l'esecuzione della segretaria generale del Partito del Futuro della Siria, Hevrin Helef. La richiesta è che la combattente YPG Čiček Kobane venga immediatamente liberata e che il governo di Erdogan si pronunci sulla situazione. Everyone falls in love sometimes. Sometimes it's wrong. Sometimes it's right. For every win, someone must fail. But there comes a point when we exhale, yeah. Angela, Elizabeth, Tiffany e Brandy in comune hanno il fatto che vengono tutte dalla Louisiana negli Stati Uniti e che Amnesty International ha pubblicato un servizio raccontando le loro storie e il loro coraggio. Tutte infatti hanno subito anni di abusi fisici, emotivi e sessuali, alcune sono sopravvissute alle armi. Tante non hanno ricevuto dal sistema l'aiuto di cui avevano bisogno. Il nuovo rapporto Amnesty International Fragmented and Unequal mostra come il sistema giudiziario in Louisiana stia di fatto fallendo nella risposta necessaria a dare alle donne sopravvissute alla violenza domestica. La risposta delle istituzioni, dice Amnesty, è spesso inadeguata e discriminatoria. Sometimes you laugh, sometimes you cry. Life never tells us the winds are wise. When you've got friends to wish you well. Angela, sopravvissuta alle armi da fuoco, alla violenza domestica e i suoi due figli a Baton Rouge, racconta: nel mio caso è iniziato come un abuso verbale. Conoscevo il mio compagno da 20 anni ed era una brava persona. Ha iniziato a cambiare nel 2015, dopo la morte di sua madre, ha acquistato diverse pistole, un machete e un fucile da caccia. È diventato più combattivo, non solo con me, ma con gli altri e attraverso i social media. Non sono riuscita a fare nulla, racconta lei. Le aggressioni fisiche iniziano una sera di novembre. Stavamo conversando e a un certo punto la tensione è salita e gli ho chiesto di andarsene. Mi sono avvicinata alla porta, l'ho aperta e ho detto che ne avremmo parlato un'altra volta. Mi ha afferrato per il cappuccio della felpa, mi ha buttato fuori dalla porta, si è messo sopra di me e ha iniziato a soffocarmi. Sono riuscita a chiamare un nostro figlio maggiore. Solo allora lui si è staccato e se n'è andato. L'escalation continua. Ci eravamo lasciati, ma stavamo ricominciando a risolvere le cose. Quella mattina stavamo litigando. Ero nella vasca da bagno, è entrato e mi ha sparato. Ricordo solo gli ultimi due spari. Guarda cosa mi hai fatto fare, Angie, le dice lui. Mi hai fatto sparare. Angie, che ha 4 figli, passa 3 settimane in ospedale. Durante quel periodo circa 400 persone sono venute a trovarmi, dice lei. È stato allora che mi sono resa conto di avere un messaggio che volevo condividere. Da qui, Angela, che è rimasta paralizzata, ha cominciato a lavorare per parlare di violenza armata e violenza domestica, di controllo delle armi e di salute mentale. You'll find a point when you will exhale, yeah, yeah. Say il suo comportamento è cambiato rapidamente, racconta lei. So che avrei dovuto riconoscerlo, ma quando ti trovi in una situazione così è difficile. Un giorno mia figlia mi ha chiamato piangendo, dicendo che il mio ex aveva minacciato di colpirla alla testa con un martello. Ho chiamato la polizia e l'hanno rimosso da casa. Ho ricevuto un ordine restrittivo il giorno dopo, racconta Elizabeth. Dopo un mese sono andata dal giudice e gli ho chiesto di annullare l'ordine perché non potevo immaginare che quest'uomo ci facesse del male. Poi, il 13 gennaio, tutta la mia vita è cambiata. Quando il mio ex è entrato in casa, mia figlia era sveglia. Ho sentito una discussione. Sono entrata nella zona giorno per cercare di calmarla. Aveva gli occhi spalancati per la paura. Poteva vederlo avvicinarsi con una pistola. Quando mi sono voltata, ho sentito i colpi. Sono riuscita a comporre il 911. Non riuscivo a parlare. Mi aveva sparato al viso. Mi hanno rintracciato la chiamata a casa. Quando è arrivata la polizia, Elizabeth ha sentito un poliziotto dire: «Oh, questo è solo un caso di violenza domestica». A un metro da lei, che lottava per la vita e da sua figlia morta, i proiettili avevano fatto a pezzi la faccia di Elizabeth, che è stata ricostruita. Lei oggi in foto sorride. Hearts are often broken when there was unspoken in your soul, there's answers to your prayers. If you're searching for a place, you know a familiar face, somewhere to go, you should look inside your soul. You're halfway there. Sometimes you lie, isn't time. incontrato il mio molestatore quando avevo 14 anni, racconta Tiffany. All'inizio non erano abusi fisici, erano emotivi. Mi metteva in imbarazzo o mi faceva sentire inferiore di fronte alle altre persone. Il passaggio dagli insulti è stato molto veloce. Quando ero incinta di 7 mesi, mi ha picchiata fino a quando non mi sono ritrovata sul pavimento raggomitolata in una palla. E ancora, mentre Tiffany è in ospedale per partorire, lui incassa l'assegno della madre di lei per acquistare farmaci da rivendere. Eravamo indietro con l'affitto e il proprietario di casa ha preso tutto quello che avevo e lo ha messo sul marciapiede. Alla fine la decisione: non sarei tornata indietro, dice lei. Ma lui riesce a rintracciarla. Mi ha fatto credere di essere l'unica persona che mi avrebbe amato. E ha ricominciato. Mentre Tiffany è incinta al 7° mese del suo 6° figlio, lo sparo. Ho visto un grande lampo di luce e la mia mascella ha oscillato. Ho visto la mia camicia, era rossa. I dottori mi hanno detto che l'unica ragione per cui il colpo non mi ha uccisa era perché nella pistola c'era un proiettile di calibro sbagliato. Come se non bastasse, la polizia ha minacciato di arrestarmi se non avessi rivelato chi mi aveva sparato. Ho dato il nome del mio violentatore, ma in seguito ho ritrattato la mia dichiarazione perché ero spaventata. Ho detto al procuratore che mi ero sparata da sola. Hanno lasciato cadere tutte le accuse contro di lui, ma alla fine è andato in prigione per 3 anni a causa di una violazione della libertà vigilata da un precedente reato. You find a point when you will exhale, yeah, yeah. Say shoot, shoot, shoo-ba-doo, baby. Ci siamo sposati a 18 anni, abbiamo avuto 3 figli e siamo rimasti insieme quasi per 15 anni. Non mi rendevo conto di cosa fosse un matrimonio violento. Dopo aver divorziato, ha sempre saputo dove fossi. Una volta un mio collega mi ha mandato un SMS e mi ha detto: è in fondo alla strada, seduto nel suo veicolo aziendale. La polizia mi ha scortato nel mio ufficio. Contro l'ex di Brady scatta un ordine preventivo. Un paio di settimane dopo, lui mette la gamba mozzata di un maiale nella borsa dei pannolini dei nostri figli, insieme a una nota che diceva che i bambini la volevano come souvenir. È andato a caccia e aveva tagliato la gamba al maiale. C'era del sangue dappertutto. Nonostante l'ordine protettivo, mi ha perseguitato e molestata, racconta lei. Ero ancora troppo spaventata per chiamare la polizia. Ha fatto irruzione in casa mia, ha minacciato di uccidersi, di uccidere altre persone. Ero in una nuova relazione e ho peggiorato le cose 10 volte. Quei pochi anni sono stati un inferno. Non sapevo di poter rinnovare il mio ordine di protezione. Quindi è scaduto. Dopo essersi risposato e aver divorziato 2 volte, l'ex si fidanza di nuovo. Anche la nuova fidanzata chiede un ordine protettivo perché stava abusando di lei e temeva per la sua vita. Mi ha chiesto di andare all'udienza per testimoniare gli abusi passati, usare la mia voce per rompere il silenzio contro la violenza domestica. È stato difficile, ma vale la pena per riavere la mia vita, racconta. Oggi Brady si rendono disponibili per testimoniare anche la seconda e la terza moglie. Ora Brady ha anche la custodia esclusiva dei figli e un ordine di protezione permanente per tutta la famiglia. Da allora ho fondato Voices of Acadiana. La nostra missione è quella di sostenere le vittime di violenza domestica, lavorando attivamente al cambiamento dei sistemi, educando e sensibilizzando l'opinione pubblica sulla violenza domestica e sul peso che portano le sopravvissute per interrompere il ciclo dell'abuso. E da parte nostra, anche per oggi è tutto. Grazie di essere stati con noi. Vi aspettiamo domani per una nuova raffica di notizie. Sono Barbara Schiavulli e questa è Radio Bullets. punti si cercavano, i tre punti sono arrivati. Bologna vince 2-1 con la Samp, lo fa probabilmente in una delle partite meno brillanti viste fino adesso, però c'è da dire che qualche volta si è riusciti dal campo con le pacche sulle spalle e dicendo di aver visto un buon Bologna giocare molto bene, appunto non erano arrivati, quindi è segno di grande maturità. Un Bologna che ha nei due protagonisti delle due reti, Rodrigo Palacio e Mattia Bani, probabilmente gli MVP della gara. Palacio diventa il capocannoniere con 3 gol, Mattia Bani lo segue con 2. Diciamo Bologna è un po' più lento, più distratto, che non fa molto pressing, e questo poi è anche il motivo di una palla persa a centrocampo che consente all'ex Gadiadini di pareggiare. Poi questo gol su una spizzata di Mbaye per l'entrata di Bani da dietro su un calcio d'angolo. Diciamo una vittoria che consente ai rossoblù di rimuovere una classifica che rischiava di diventare poco utile per quanto visto fino a questo momento, quindi serviva anche per cercare di ridare morale. Bologna che ha fatto una forma con finalmente Skovolsen, da un esordio non dei più brillanti, imprecisione, egoismo forse di troppe, non è soprattutto sulla qualità che deve puntare, ma cercare di una quantità migliore di capire che è nel campionato un pochino più complicato di quanto aveva visto fino adesso, e che probabilmente in un futuro certe cose gli verranno con più facilità. Ora deve anche un po' adattarsi. È un Bologna che anche Poli e Zemaili che non hanno una delle prestazioni, una squadra, quella sarda, che è il centrocampo, quello sardo a mio avviso più dotato del Bologna, e poi sabato arriva l'Inter, un Inter che viene dal pareggio, di aver mancato la possibilità di riagganciare la vetta della classifica, visto anche il pareggio della Juventus a Lecce, quindi due gare dove molto probabilmente sarà necessario attivare un po' di turnover, e mi immagino che il Rodrigo Palacio, visto ieri, che penso che abbia fatto 1 milione di chilometri, sempre molto molto lucido, non ha praticamente mai perso un pallone, penso che lui verrà sacrificato nel turnover, e questa vittoria di ieri consente di affacciarsi a queste due gare con maggiore serenità e con la consapevolezza di aver dato un giusto disegno alla classifica dei rossoblù. Vediamo appunto al termine di questo trittico che cosa dirà il fatturato, ma l'aver fatto un passo avanti non giocando molto bene, a mio avviso, è un segno anche di maturità. Chi ha maggiore maturità è la Virtus, che arriva a 6 vittorie consecutive, lo fa sabato sera sbancando Brescia in una gara scorbutica, una gara che era dopo la prima sconfitta stagionale. Infatti la Virtus a Patrasso aveva perso in Coppa in una gara abbastanza sognona, con un inizio veramente pessimo, avere recuperato e poi dopo però non aver avuto la lucidità di portarla a casa. Mentre quella vista sabato sera a Brescia, vedo che non ha avuto l'accortezza di riuscire a imporre il proprio ritmo nelle fasi centrali della gara, però poi ha sfruttato a pieno il valore dei suoi giocatori di centrocampo, perché alla fine la punteggio è 80-82 per la Virtus. Ci sono 5 giocatori in doppia cifra, e il top scorer è Teodosic, che alla fine ne fa 25 con un quarto quarto da 11 punti, e lo seguono a ruota Markovic 17, Gamble 12, Hunter e Ricci con 11. Ricci che ha la tripla della vittoria, a mio avviso, perché ha rimesso avanti i bianconeri in una situazione di parità dove le due squadre sbagliavano molto, una Brescia che veniva da una tragedia in Coppa dove aveva fatto soltanto 35 punti. Quindi una vittoria importante, sporcandosi le mani anche qui, come diciamo, per il Bologna, anche per la Virtus, non giocando una grande gara, però con la bravura nei momenti decisivi di fare il canestro. Sicuramente la tripla di Teodosic nel finale è quella che sancisce la vittoria bianconera, ora in testa la classifica con 6 vittorie consecutive. In settimana, mercoledì, arriva Monaco, la squadra francese che è probabilmente la squadra più forte del giorno, che sarà una gara molto molto importante. Vediamoci anche come ci si arriva con diciamo così le energie fisiche e psichiche. E poi domenica si va a Reggio Emilia, in un campo anche questo abbastanza storicamente ostico per bianconeri, con a mio avviso una delle squadre più interessanti del campionato, con un probabilmente l'allenatore in questo momento italiano migliore del campionato, togliendo Messina. Quindi sarà una gara molto molto delicata, anche qui due partite che possono indirizzare la stagione, augurandosi che magari le guardie tipo Gaines e Wims riescono a trovare un pochino più di continuità con il canestro, perché altrimenti la Virtus soltanto con 2 giocatori e qualcosa un po' sotto le pance non riesce ad avere pericolosità lungo tutto il suo roster. Vince anche da Fortitude, lo fa soffrendo più di quanto ne dica il punteggio, perché alla fine vince 82-71 contro Pistoia, una Fortitude che veniva dalla debacle romana, che non ha ancora tra le sue file Martin Lunen, e quindi metteva in campo Sims che è all'esordio e Stevens che invece era ai saluti. Sims alla fine è il top scorer con 18 punti, seguito da Robertson con 16, 13 punti per Stevens, che molto probabilmente firmerà in settimana con Cremona. Daniel ne fa 12, così come Cinciarini, così come Aradori che ne fa 11. Una Fortitude, diciamo, che non incide più di tanto, si fa un po' trascinare dagli ospiti. A mio avviso in questo momento la squadra di coach Antonio Martino ha qualche problema in cabina di regia, dove la palla non gira troppo bene. Robertson potrebbe essere servito meglio a un tiro da 3 sempre molto preciso, ieri ha finito con un 4 su 6, e un po' ci prova Stipcevic a cambiare i ritmi. Poi onestamente la differenza fra i due roster alla fine viene fuori. Pistoia è veramente una squadra molto molto modesta, la Fortitudo dà sempre l'impressione di aspettare il momento giusto per provare ad affondare, per non sprecare energie, e nel finale trova i canestri della staffa da sotto, con una Pistoia molto, molto arrendevole, che arriva negli ultimi giri del circuito, diciamo così, con le batterie scariche, con poca lucidità. Quindi una vittoria anche qui con lo stesso comune del dominatore di una partita non molto brillante, ma fondamentale in queste situazioni portare a casa i due punti. Fortitudo che gioca in casa domenica contro Brescia, una Brescia ferita in campionato e in coppa, Brescia che è sicuramente una squadra con un pedigree migliore dei toscani visti ieri, quindi sarà una gara difficile, una gara che potrebbe rimettere dentro Marti e Lunin e da qui dare una diciamo così un banco di prova soprattutto casalingo a livelli di Venezia. Vediamo se la Fortitudo riuscirà a recuperare un po' di energie che non mi sembrano in questo momento tante nel serbatoio e riuscirà ad avere un pochino di più di regia da parte dei suoi playmaker. Per questa settimana è tutto, buona giornata. Segna stampa di Radio Città Fujiko. La rotta dell'informazione. 9:36 minuti di questo 28 ottobre, riprende la settimana chiaramente guardando il weekend elettorale a partire dall'Umbria, dove le cose sono state molto male per il centro-sinistra, peggio di quanto forse preferisco, e molto meglio all'inverso per il centro-destra. Questo è con tutte le conseguenze che questo può avere. Chiaramente la destra spera, il centro-sinistra teme che questo effetto Umbria valanga possa condizionare anche le elezioni regionali a seguire e poi naturalmente il governo e i dissidi all'interno della maggioranza. Adesso comunque la regione è, si dice è azzurra, ma è un azzurro nero, l'Umbria non è più né la regione rossa né la regione rosa, quindi la Lega si attesta al 37%, il PD al 22,3%, Fratelli d'Italia al 10,4%, i 5 Stelle al 7,4%, la candidata della destra Tesei va al 57,5% e la Bianconi del centro-sinistra va al 37,5%. Devo dire che non vale più neanche il discorso che la sinistra non è andata a votare, perché l'affluenza è cresciuta e tocca al 64,42%, quindi praticamente molti elettori centro-sinistra si sono andati sul centro-destra. Questo è il quadro niente affatto entusiasmante che si evince da queste elezioni e che vede i titoli giornali in qualche modo infierire come sempre sugli sconfitti e lodare i vincenti. Questo lo fa sicuramente la destra. La Verità dice asfaltati, Libero sinistra stracciata, Il Giornale asfaltati ancora, e uguaglio storica vittoria centrodestra, dice Sallusti, unito vola la Lega, Caporetto per i 5 Stelle, male il PD di Zingaretti, gli italiani hanno bocciato il pateracchio cosiddetto giallo-rosso. Il Tempo, altro giornale da destra questa volta romano, bacioni per Ugini, ma anche gli altri giornali raccontano la stessa cosa magari in termini diversi. Il Messaggero, Umbria valanga Salvini su PD 5 Stelle, Il Mattino, Umbria patto PD 5 Stelle va KO, Umbria disfatta 5 Stelle PD e Il Gazzettino, dunque valanga Salvini su PD 5 Stelle La Stampa, L'Umbria si lega a Salvini la Gazzetta del Mezzogiorno, Il Ciclo di Sinomono, L'Umbria Salvini vince a mani basse e le urne bocciano l'alleanza PD 5 Stelle, e potremmo andare avanti ad oltranza, finiamo con l'Unione Sarda, exit poll, Salvini stravince in Umbria. E devo dire in tutto ciò abbastanza patetico il titolo del Fatto Quotidiano, Salvini si consola con l'Umbria, adesso una consolazione, Lega 5 Stelle battono PD 5 Stelle 60-40, e questo è quanto. Poi all'interno in realtà i dati crudi vengono fuori più con maggiore evidenza, Umbria svolta a destra ma tosta per i giallo-rosa, 66% affluenza del 23, è cresciuto di 10 punti rispetto al 2015. Questo è quello che è la titolazione dei giornali. Sì, anche i giornali che ho sotto mano io ovviamente dedicano paginate, anzi forse fin troppe, perché adesso parliamoci chiaro, 12-13 pagine al giorno, da giorni e poi anche nei prossimi giorni che vedremo sul voto umbro. Oddio, è importante, però stiamo parlando di un voto regionale che si consuma metà foliazione di ogni quotidiano. Direi che per una nazione come l'Italia, che ha tutta una serie di questioni, di problematiche, eccetera, sia un tantinello molto, ecco. Vorrei sottolineare anche questa cosa di sottolineare con analisi, controanalisi. Valanga Salvini su PD e 5 Stelle, vittoria schiacciante in Umbria per la candidata del centrodestra Donatella Tesei, affluenza boom, quasi 20 punti di distacco, l'alleanza di governo ora vacilla. E questo forse sarebbe anche sbagliato, intanto perché l'alleanza di governo prima di vacillare dovrebbe dimostrare di esserlo e di solidificarsi giorno per giorno, mentre questo non avviene. E poi stiamo parlando di una regione, l'Umbria appunto, che viene da trascorsi molto particolari, un commissariamento, un storie brutte che hanno come dire fatto arrabbiare i cittadini, deluso i cittadini e li hanno fatti disamorare e allontanare dalle rappresentanze politiche. Altra cosa che c'è da aggiungere, diciamo che la verve del candidato scelto non era forse la più, diciamo, vivace, ecco, questa è la parola giusta. E ancora, in un mese non si consolida un'alleanza, non si convince i propri elettori che quell'alleanza è reale, vera e solida, e tutte queste cose vanno considerate nell'analisi di ciò che è avvenuto. E ancora un'altra cosa che vinciamo dai quotidiani che ho sotto mano è anche: un'alleanza non si decide con un tweet, e non c'è cosa più vera, perché comunque un'alleanza si crea appunto giorno per giorno, partendo dalla base, convincendo che è una cosa seria e non una roba di facciata buttata lì per provare ad andare oltre. Trionfo Lega, l'Umbria affossa il patto PD Movimento 5 Stelle, Grillini dimezzati, a pezzi l'alleanza coi Dem. Questo è il Resto del Carlino, che addirittura sottotitola le pagine dedicate alla situazione delle elezioni regionali come regionali da shock, perché ormai le parole si sprecano anche in maniera esagerata pur di scioccare il lettore. E ancora in retroscena di Tommaso Ciriaco dalle pagine di Repubblica: Conte, non ci si ferma per una sconfitta, ma ora il governo trema, il movimento sprofonda. E già Annalisa Cuzzo Crea ci racconta, sempre dalle pagine di Repubblica, che Di Maio dice stop a nuove intese. E vedremo. Ovvio che adesso sempre Repubblica ci riporta la mappetta d'Italia con le regioni blu e le regioni rosse. Rimangono al centro-sinistra 7 regioni, ovvero Toscana, Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Campania, Puglia e Calabria. Dai sindaci riuniti, dubbi sulle strategie delle alleanze. Il primo cittadino di Bari: certe scelte non si possono calare dall'alto. Ecco quello che dicevamo poco fa: un'alleanza non si decide con un tweet, e non solo un'alleanza comunque. Andiamo a vedere La Stampa, che titola Valanga Salvini su PD e 5 Stelle. È solo l'inizio, tornerò al governo. Salvini festeggia la sua rivincita. Il segretario leghista arriva in tarda serata a Perugia dopo aver assistito alla sconfitta del Milan contro la Roma. Abbiamo motivato la gente a tornare alle urne, è stata una festa della democrazia. L'esecutivo ora ha paura. E ora l'alleanza civica traballa. Di Maio è tentato dal dietro front, ma Conte dice avanti con il progetto. Devo dire che, lo vediamo tra un po', su Conte si sta abbattendo un'altra questione che solleva il Financial Times, ma tra poco ve ne parlo. Le esultanze di Berlusconi, 5 Stelle PD senza anima e futuro, dice il giornale, ma un'esultanza contenuta, perché se dal giornale passo al Corriere, con Paola Di Caro intervista Tajani. Un segnale duro al governo: Forza Italia troppo schiacciata sulla Lega, l'alleanza non ha alternativa. Alla Carfagna, amici, che dico? Ricordo che il centrodestra unito lo abbiamo sempre voluto noi, divisi gli elettori non ci seguirebbero. Solo che i dati che vengono fuori da queste elezioni umbre danno Fratelli d'Italia più Lega al 47%, quindi Forza Italia non ce n'è più neanche tanto bisogno, e questo è il problema, che creano ancora maggiore ambasce anche nel partito di Berlusconi. E allora, e poi girando pagine, sono sul Corriere: Di Maio sotto accusa blocca le intese locali. E effettivamente ha dimostrato questa intesa che l'elettorato 5 Stelle, se c'è un'intesa col PD, vota dall'altra parte. I ribelli alzano il tiro, intervenga Grillo. Dall'area del capo critiche al cosiddetto effetto Conte. Nel PD c'è l'amarezza di Zingaretti: il partito cambi pelle o rischia di non farcela. il governo va avanti solo se fa, e appunto, se magari si fa meno chiacchiere e meno tweet. L'ennesima disfatta grillina, secondo il giornale, ora Di Maio deve pagare, non è l'unico responsabile del flop umbro. Devo dire onestamente che i flop 5 Stelle regionali hanno ricevuto anche prima dall'alleanza con il PD, cioè in realtà, anzi, l'alleanza con il PD era legata nella speranza di nascondere il flop elettorali locali. Questa volta comunque Di Maio non eviterà il processo, ma poi si può dire tutto che si vuole, ma continuiamo a ignorare che ci sono segnali della società che sono assolutamente in direzione fascistoide. E lo prendo per esempio due episodi dalla Lettere Selvagge, cioè che sono il blog della Selvaggia dal Fatto Quotidiano. Una ragazza scrive da Como: oggi in ufficio ho assistito allibito ad una telefonata tra la mia collega e la sua giovane figlia Valentina, 22 anni. Ha chiamato la sua mamma in lacrime, disperata, perché sull'autobus ha dato un biglietto ad una signora di colore con il neonato in braccio, altrimenti l'autista l'avrebbe fatta scendere. Da sottolineare che a Como pioveva dirotto. Ebbene, una signora si è rivoltata contro, dicendole di vergognarsi di aiutare questa gente con tutti gli italiani che muoiono di fame. In un attimo si è ritrovato tutto l'autobus contro, addirittura due ragazzi l'hanno insultata volgarmente, lei non si è persa d'animo ed ha chiamato i carabinieri. Una volta arrivati, le forze dell'ordine hanno bloccato l'autobus, ma non hanno potuto fare altro che stringere la mano, complimentarsi con la ragazza che ha donato il biglietto. Tutti hanno continuato a guardarla male, qui non è la signora, è la che l'autobus era da quella parte lì. E poi appunto nessuno ha mosso un dito, e l'autista zitto. Ancora, andiamo invece alle poste. Succede che questa signora va alle poste, c'è la fila, no? Di fronte a me avevo una decina di persone, ovviamente su tre sportelli ce n'erano attivi solo due. La persona di fronte a me era un ragazzo di colore, ben vestito, tranquillo e niente da dire. Ma tu sai che cosa vuol dire che per questo, per una filiale di un paese delle poste, questo povero ragazzo stava per pagare la sua prima bolletta all'ufficio postale? Era felice perché si stava integrando bene. Anzi, abbiamo scambiato due chiacchiere. Arrivato allo sportello, l'impiegata delle poste ha cominciato a dirgli che la busta la doveva aprire e non dargliela chiusa e piegata, che lei è mica lì per aprire i documenti e che se questo discorso non gli piace può tornarsene a casa sua. Lui non aveva detto nulla. E questa, di fronte al mio stupore, continuava la sua crociata contro il povero ragazzo. Cos'è, la prima bolletta che paghi perché le altre te le abbiamo pagate noi? E lui zitto. Cosa poteva dire uno straniero in un paese straniero? Come può sentirsi? Come se avessero tutti contro tutti. Io ho iniziato a filmare, ho scritto alle poste per questo, e sai cosa mi hanno risposto? Non si può filmare per la privacy. Ecco, questo sollecitazione per cui c'è una, dopo 30 anni di battere chiodi anche dalla parte della sinistra su terreni del sospetto, della paura dell'altro, dell'odio, a questo punto ovviamente chi ne trae vantaggio la destra, e più correttamente e coerentemente, e quindi neanche l'Umbria è più la regione di Francesco d'Assisi della gentilezza. Sorella luna, la madre terra con frutti, prati e fiori, il fuoco, il vento, l'aria e l'acqua pura. Tempi duri per San Francesco, evidentemente. Posso dirti, questa mattina Mauro Biani, l'illustratore che era del Manifesto, che ora crea le vignette per Repubblica, ha fatto questa vignetta questa mattina proprio con San Francesco, che dice: elezioni umbre avrei perso rovinosamente ai miei tempi. E sì, e comunque la destra è all'attacco su tutto e si rischia di perdere con l'acqua sporca anche il bambino dei centro-sinistra e dei 5 Stelle in particolare. Gian Maria De Francesco, il nodo economia così descritto e non certo ecologico o ambientale, dal Giornale: non basta la plastic tax, che sembra un'eresia, plastic tax, per tassare i materiali plastici che fanno tanto bene al mondo. Non basta la plastic tax, il governo eco-talebano stanga pure le trivelle. La nuova IMU sulle piattaforme vale appena 30 milioni, ma mette a rischio gli investimenti. Quindi, parliamo di trivelle proprio nel mare Adriatico, mare chiuso, che se ci fosse un incidente come quello della British Petroleum nel mar Caraibico sarebbe un maro morto. Comunque, la maggioranza giallorossa, guidata da un furore antiambientalista, la Greta Thunberg, questa è l'apertura, ne sono la principale testimonianza, tanto la plastic tax quanto una nuova imposta che renderà meno agevole l'esplorazione e l'estrazione di idrocarburi delle piattaforme a largo delle coste italiane. Si tratta dell'IMPI, acronimo di imposta immobiliare sulle piattaforme marine, e che dall'anno prossimo studierà l'IMU su questo tipo particolare di fabbriche, fabbricati industriali. Questo è quanto in un quadro che tra l'altro è la dichiarazione del Giornale, o forse la sua speranza, non so se abbia avuto dei rumors o delle voci di corridoio. Dunque, e già si vocifera, dice nel PD trasformato dal Capo, si vocifera un possibile nuovo governo con un premier diverso da Conte. Ora Conte naturalmente nei sondaggi così è anche un premier apprezzato, meglio metterci un uomo di carta velina, così le cose di male in peggio. Aggiungo, scusami, torno alle notizie, diciamo, con cui abbiamo aperto, ovvero le elezioni di Umbria e quali sono appunto a cascata gli eventi. Questa mattina un post sul blog delle Stelle dice, tra le altre cose: il patto civico per l'Umbria lo abbiamo sempre considerato un laboratorio, ma l'esperimento non ha funzionato e questa esperienza testimonia che potremo davvero rappresentare la terza via solo guardando oltre i due poli contrapposti. Questo è quanto ci arriva appunto dal blog 5 Stelle. Certo è che un laboratorio di solito, almeno nella storia politica nostra e non solo, un laboratorio politico non può nascere, crescere e morire in un mese. Cioè, in un mese non fai un laboratorio politico, fai metti qualcosa attaccato con l'atta che poi vedi se sta lì. Tu prima, in conseguenza della fascistizzazione del clima italiano, facevi una serie di esempi. Vabbè, c'è anche il classico incontro a Predappio per l'anniversario della marcia su Roma, cripta aperta, parola d'ordine evitate gli eccessi, camicie nere, 3.000 in corteo e bracci alzati. Quest'anno erano 3.000 in corteo, aumentano sempre di più. E però è una goliardata, eccetera eccetera. Andrea De Maria ci ricorda che si è svolta a Predappio, nell'infausto anniversario della marcia su Roma, una manifestazione con saluti romani. Non smetterò mai di sottolinearlo: in Italia l'apologia di fascismo non è un'opinione politica ma un crimine, eppure questo crimine non viene mai fatto rispettare, cioè non viene mai come dire punito o perseguito, diciamo così. Cosa invece che hanno fatto a Glasgow, quando i nostri tifosi laziali sono andati a sfilare col braccio, a parte la rissa che hanno scatenato prima della partita, ma c'è stata questa sfilata col braccio teso in giro per le vie di Glasgow e sono stati arrestati 5 ultras. A Glasgow l'hanno chiamata violazione della pace, cioè un reato legato ai saluti a braccio teso esibiti prima e dopo il match. E quindi, come vedete, è possibile perseguire questo reato, che non è reato solo a Glasgow, è reato in tutta Europa. In Europa si parla di nazismo e fascismo, da noi solo di fascismo, perché quello avevamo, ma tant'è, anche da noi è reato. Comunque, dicevamo prima Conte, c'è una tegola che si sta battendo in questo nuovo, insomma, in questo modo attuale da un po' di anni a questa parte, di colpire tutti dal punto di vista giudiziario, dell'inchiesta giudiziaria. Il Financial Times questa mattina ci racconta che Conte è legato a un fondo di investimento vaticano sotto inchiesta. Ovviamente la replica di Palazzo Chigi è nessun conflitto di interessi, ma andiamo a vedere di cosa si tratta. Dietro al gruppo di investitori che ha assunto Giuseppe Conte come legale prima che diventasse primo ministro, c'era un fondo di investimenti che farebbe riferimento al Vaticano. E dice che il Financial Times che l'attuale presidente del Consiglio era stato assunto per lavorare su un accordo solo poche settimane prima di ricevere l'incarico di premier. I legami con Conte solleverebbero, secondo il quotidiano, ulteriori dubbi sulle attività finanziarie della Segreteria di Stato del Vaticano e della burocrazia della Santa Sede, che sarebbe oggetto in questo momento di un'indagine interna per transazioni finanziarie sospette, nonché del conflitto di interesse che potrebbe esistere tra Conte e i suoi ex clienti. Conte era un accademico poco conosciuto prima di essere assunto nel maggio del 2018 per fornire un parere legale a Fiber 4.0, una società di capitali che voleva aggiudicarsi il controllo di Rete Lit. Si legge: il principale investitore di Fiber 4.0 era il fondo Athena Global Opportunities, sovvenzionato dalla Segreteria Vaticana. Investimento quello vaticano che non era pubblicamente noto fino all'inizio dell'indagine interna alla Santa Sede. Questo accordo prevedeva un investimento da parte di Atena di 129 milioni di sterline a Chelsea, a Londra, probabilmente per costruire 49 appartamenti. Il caso aveva portato al licenziamento di 5 persone. Quindi cosa succede? Documenti del fondo Atena mostrano che l'investimento fatto da Mincioni in Rete Lite era stato fatto utilizzando i 200 milioni che gestiva, di dollari che gestiva per la Segreteria Vaticana. Contava di essere eletto a far parte del consiglio di amministrazione di Rete Lite. In una nota ai suoi clienti, di cui il Financial Times ha potuto prendere visione, Conte ha scritto che il voto avrebbe potuto essere annullato se fossero state applicate a Rete Lite le regole del Golden Power, che permettono al governo italiano di bloccare il controllo straniero sulle aziende italiane considerate di importanza strategica nazionale. Ecco cosa c'è, dove scatterebbe il cosiddetto conflitto di interesse. Veramente tortuosa la cosa. Comunque, tutto questo 15 giorni prima di essere incaricato presidente del Consiglio. Sì, perché lui aveva la sfera magica e sapeva che 15 giorni dopo lo avrebbero chiamato a fare il presidente del Consiglio. Conte, come premier a giugno, applicò proprio la regola del Golden Power su questo tema. Insomma, questo è quanto. Allora, i finanziamenti di un avvocato da parte dell'assistito possono essere oscuri. Allora, a questo punto, difficilmente non posso più difendere mai Totò Riina, per esempio. Detto questo, veniamo alle cronache. Un'app contro il caporalato, però le aziende si defilano. Succede nella regione Lazio, a dimostrazione della buona classe padronale. anticaporalato nei campi, però le aziende si sfilano, dice anche l'interno, sfruttamento. L'iniziativa della Regione Lazio per incrociare domande ed offerta e per viaggiare gratis sui mezzi pubblici. Cioè, un'app è ancora semplicissima, però si scontra che corre contro il guadagno, è ovvio. È la rete di comando di gerarchia fascista padronale. Ma solo 3 imprese e agricole hanno aderito, tutto in tutto il Lazio. Questo è quindi la finora è stato sperimentato a Latina, proprio la zona nella quale qualche giorno fa un uomo è stato arrestato poiché spronava i suoi operai nei terreni a colpi di fucile. Difficilmente quello applica l'app, preferisce caricare la doppietta. Questo è quello che arriva dal Fatto Quotidiano. Invece, attenzione, suona allarme giallo, prima ancora allarme rosso, perché controcorrente del giornale parla di addio medico di famiglia. Non c'è solo il boom di pensionamenti, ad essere in crisi la figura stessa del dottor di base, e per qualcuno è ora di abolirlo. Cretta così, invece, va verso la privatizzazione, a pagamento, perché che si racconta, a parte il mio dottore, sono tanti, nemmeno li conosco, perché dopo invece con gli associati c'è un rapporto veramente confidenziale, ma detto questo, di fronte a questo trend minaccioso, regioni come la Lombardia, ma non solo, spingono per verso la medicina di gruppo. L'invito dei medici è quello di mettersi insieme per aprire poliambulatori aperti dell'8 alle 20. Un incentivo, un contributo mensile per pagare a ora una segretaria e un infermiere, quindi di struttura privata, mentre lo pagherebbe il pubblico, va da sé. Figure fondamentali per l'organizzazione del poliambulatorio. Il contributo va ad alzare la base contributiva del medico, che lo percepisce, ma non costruendo ovviamente un'entrata per il dottore, che riesce a malapena a pagare i 2 collaboratori. Qui sono previste incentivazioni aggiuntive, quindi ancora una volta privatizzazione, ma quei soldi del pubblico. Questo è e questa cosa in un sorta di blob messo insieme artatamente fa segnare invece l'altro dato che nulla c'entra con questo. Ogni anno sono 1500 fanno la valigia in Francia e in Germania, si guadagna il doppio, ma ci sono anche condizioni molto migliori che non quelli che hanno i giovani medici in Italia in questo momento. Questo è allarme rosso, è cominciato il grande attacco alla grande risorsa economica delle famiglie italiane, cioè la sanità. Vogliamo parlare di invece welfare per i giovani o per i bambini? No, sempre sulla scia anche di come nasce il fascismo, nel senso fonte di frustrazioni della vita che ti portano poi a essere contro qualsivoglia cosa e anche in maniera violenta. Non siamo un paese per giovani, in povertà 1,2 milioni di minori, welfare e scuola non aiutano più. È la disuguaglianza più profonda da nord a sud, dal 2008 sono triplicati gli indigenti under 18 e quando arrivano a 18 poi votano. Stabile la quota di anziani, gli esperti a 3 anni di età, differenze sociali già cristallizzate. Questo con buona pace di chi dice che non c'è più la differenziazione in classi. Dai nidi all'istruzione, così il sistema alimenta il gap. Per i 500.000 bambini un'alimentazione sana e completa è troppo costosa. Il rischio esclusione sociale è al 30%, fanno peggio solo Grecia, Romania e Bulgaria. La spesa pubblica per l'istruzione è scesa al minimo storico, appena il 3,5% del PIL. E quindi, insomma, questa è la situazione dei bambini e dei ragazzini italiani che poi diventeranno gli adulti di domani. E allora andiamo a questa vicenda, la chiesa che cambia. Leggo ancora dal giornale. Preti anche gli sposati. Rivoluzione amazzonica difesa da Papa Bergoglio. Il sinodo apre nuovi scenari per arginare la crisi di vocazioni nelle zone più remote. Anche perché, ma non solo le zone più remote, so che nel mio quartiere, non a casa mia perché non entrano, ma per Pasqua non c'è più il prete che gira, ma c'è un laico con la delega del prete perché mancano i preti. Comunque, si tratta di un cammino immediato, vanno stabiliti i criteri. Si pensa di introdurre il peccato ecologico per le generazioni future. Questo è quanto. E allora su questa chiesa e preti sposati interviene maliziosamente la cattiveria di Spinoza. Il sinodo dei vescovi apre spiraglio per i preti sposati, potranno lasciare la moglie. Questa sarebbe la soluzione. A proposito di diritti, c'è la Tony Brandi, o Brandi, che nel commento del giornale che ce l'ha contro una proposta di legge che cerca di combattere l'omofobia. Ecco cosa nasconde il falso allarme sull'omofobia. Si parla del decreto legge 1136 di Alessandra Maiorino, con modifiche agli articoli 604 bis e 964 ter del codice penale e l'istituzione della giornata nazionale contro l'omostransfobia. Io sulle giornate nazionali sono contrario, ma non su queste in particolare, su tutte sono contrario, perché non si nega nessuno la giornata nazionale, e più si fa la giornata nazionale più le cose peggiorano, quindi vabbè, ma pensiero mio. Allora, questo tipo di leggi proposte, secondo il giornale, censura indirettamente chi crede che i bambini abbiano diritto a un papà ad una mamma. Siccome non lo censura, dice indirettamente, è bello questo, dunque, calpestando di fatto diritti umani inviolabili, la libertà di pensiero e libertà di parole, indirettamente. Quando poi la presunta emergenza dell'omofobia, nel nostro paese non esiste, dice, assolutamente no, perché dice nel 2017 solo 13 denunce contro 83 nel 2016, le denunce, ma comunque, questo è tanto sempre del clima che si può respirare. Detto questo, andrei verso la pagina internazionale o aggiungere quello dell'altro? No, mi fa dice di no. Allora vado a poi entriamo in un tunnel di elezioni in giro per il mondo, però lo apriamo con un altro meccanismo che riguarda un articolo del Corriere della Sera. Elezioni anche in Germania, quel muro virtuale che era tra le due Germanie, i veri costi della unificazione e quanto speso l'Italia. Oggi esti salari sono inferiori del 20% e il processo di convergenza è fermo da 15 anni. Quindi la famosa Germania unita, in realtà c'è una sacca di sfruttamento con quelle poi sono le conseguenze elettorali, che diventa anche storia di copertina del Fatto Quotidiano. Berlino non insegna, nel mondo 170 muri. Al cemento si è affiancato l'acciaio, ma anche i raggi infrarossi o i droni, come accade in Svizzera. Anche l'Europa senza frontiere si riempita di steccati. Porte chiuse, e si ricorda quando cadde la barriera che separava la Germania il 9 novembre 89, i politici dissero mai più, ma da allora le divisioni sono moltiplicate per terrorismo ed immigrazione. Sotto gli occhi da sempre distratti del mondo, sotto i colpi di spugna di una democrazia, c'è chi visse sperando e chi disperando, e c'è chi visse comunque morendo, c'è chi riesce a dormire comunque sia andata, comunque sia. Sotto gli occhi annoiati e distratti del mondo, la pallottola in canna, bella calligrafia, la giustizia che aspetti è uguale per tutti, ma le sentenze sono un pelo ritardo, avvocati che alzano il calice al cielo sentendosi Dio, c'è qualcuno che può rompere il muro del suono, mentre tutto il mondo si commenta da solo, il cerino sfregato nel buio più luce di quanto vediamo, c'è qualcuno che può rompere il muro del suono. Sotto gli occhi impegnati in ben altro del mondo, ogni storia è riscritta in economia, con i pitbull mollati a sbranare per strada e coi padroni che stanno fumando, chi doveva pagare non ha mai pagato l'argenteria, c'è qualcuno che può rompere il muro del suono, mentre tutto il mondo si commenta da solo, il cerino sfregato nel buio più luce di quanto vediamo, c'è qualcuno che può rompere il muro del suono, del suono, del suono. Gli occhi comunque distratti del mondo. Si rovesciano centro e periferia. Il vampiro non cambia, pistola alla tempia, non chiede scusa per tutto quel sangue. Chi doveva pagare non ha mai pagato per la carestia. Chi doveva pagare non ha mai pagato l'argenteria. Chi doveva pagare non ha mai pagato. C'è qualcuno che può rompere un muro del suono, mentre tutto il mondo si commenta da solo. Il cerino sfregato nel buio fa più luce di quanto crediamo. C'è qualcuno che può rompere il muro del suono, del suono, del suono. E allora, parlando di muro, ed è il momento di venire in casa elettorale, ma non in Italia, in Turingia, nell'est Europa. Si diceva appunto la disparità tra le due Germanie che rimane come che rimane, e questo polarizza il voto, sbriciolando le forze storiche, ovvero sia SPD, socialdemocratici, e CDU, ovvero sia democristiani. Secondo il Corriere della Sera e Paolo Valentino, a est vola Ock, il leader xenofobo che strizza l'occhio ai neonazisti. Più che strizza l'occhio, alza il braccio. Turingia, l'FD supera la CDU, vince la Link. Quindi vedete che, a differenza dell'Italia, c'è una forte crescita della destra razzista, nazista, ma nella polarizzazione vince comunque la sinistra comunista. Alle elezioni regionali della Turingia vince la Link del Premier Bobo Ramelov, grazie soprattutto ai suoi ministri, al suo ministro presidente. L'estrema sinistra diventa il più forte partito in un land tedesco. Non era mai successo dal 90, ma è una vittoria amara per Ramelov, il quale, ai quali l'ennesimo tracollo dell'SPD e il passo falso dei Verdi fanno venire meno la maggioranza con cui ha governato negli ultimi 5 anni. Non è più il vertice per la prima volta dalla unificazione della CDU, che precipita al suo minimo storico ed è solo terza forza tra FD. Il partito dell'estrema destra nazionale ha raddoppi i voti e conferma la sua forte crescita all'est, dove viene ormai stabilmente votato da un elettore su 4. Tornano in Parlamento regionale i liberali della FDP. Tutto sotto shock. Annalena Baerbock, la leader dei Verdi, che hanno incassato un deludente 5%, ha detto senza mezzi termini: sono scioccata che abbia vinto un partito capitanato da un fascista. Ma in Turingia, come in altri land dell'est, la FD si conferma l'elefante della stanza, cioè nessuno si coalizzerà con loro, come ha ribadito ieri sera il vice cancelliere Scholz. Ma a causa di altri veti nei confronti della Linke, la CDU e la FDP hanno già detto di no a una coalizione con la sinistra. La formazione di un nuovo governo potrebbe diventare quindi un'impresa titanica. Girare l'ultradestra in regioni in cui un tedesco su 4 o su 5 la vota sta diventando sempre più difficile. Il governatore uscente Bodo Ramelov potrebbe essere costretto a un esecutivo di minoranza con Verdi e SPD. Quindi... E poi Repubblica, in un riquadrino, ci ricorda nella storia cos'era successo proprio nel land della Turingia. Stiamo parlando del 1929, quegli anni lì, che è infatti tra il 29 e il 32, il partito nazista di Hitler passò proprio in Turingia dall'11% al 42%. Questo è il messaggio che ci manda Repubblica in questo articolo. In Europa ancora Catalogna divisa secondo Roberto Pellegrino. Ancora scontri a Barcellona, sfilano pure gli unionisti. Notte di violenza dei separatisti, 2 agenti feriti. Poche ore dopo, in 350.000 con le bandiere spagnole. C'è la foto di questi manifestanti che gira col cappellino della Guardia Civile, che insomma in Catalogna ricorda le armate di Franco. Concordia è il volto di Ciudadanos, alla manifestazione esponente del governo e dei 3 principali partiti. In Argentina invece abbiamo Fernandez licenza Macri, quindi ha vinto il peronista, uomo di destra, sull'uomo di destra, ancora più di destra, ultraliberista Macri, che ha portato il paese al collasso. L'Argentina torna peronista. Decisivi voti populisti dell'ex presidente, la Kirchner. Cristina in un paese al collasso. La crisi, il paese ribolle, travolto da un tasso di povertà del 35%, indebitato come mai prima. Questo è l'Argentina, ma possiamo aggiungere anche un compendio legato all'attività della nostra redazione, perché il paese è attraversato da una grave crisi economica e sociale, dunque, e negli ultimi anni sono cresciuti movimenti che rivendicano diritti come quello dei femministi. Del movimento femminista. Le elezioni ieri sono state anticipate dalle pagelle femministe ai candidati, date da un gruppo di economisti attraverso il sito femiindex.com. Ne abbiamo parlato con Vincenzo Giardina dell'agenzia Dire. Sentiamo appunto queste note sull'Argentina. Sì, è un sito creato, aperto, in realtà quest'estate, l'estate italiana in Argentina, il mondo rovesciato, diciamo, però era agosto, è andato online su iniziativa di un collettivo di esperte, economiste, anche attiviste, il nome del collettivo è Economia Femminista, e l'idea di questo sito è nata, in effetti, accennavi al voto di domenica, con l'approssimarsi delle elezioni che saranno anzitutto presidenziali, con confronto tra il presidente uscente Mauricio Macri e lo sfidante Alberto Fernandez, e però anche legislative e provinciali. Ecco, sul sito femminindex.com sono ricostruiti un po' i profili di tutti i candidati, però appunto aggiornati sulla base delle dichiarazioni che hanno rilasciato alle attiviste di economia femminista o dichiarazioni pubbliche relative ai temi legati ai diritti umani, alla parità di genere. Quindi ci sono, ecco, parole, promesse, minacce, anche frasi macho, che sono catalogate e contestualizzate con grafici che poi raccontano un po' cosa accade oggi in Argentina, cosa accadeva ieri e i problemi che ancora ci sono. E cito rapidamente alcuni dati che sono rilanciati su questo sito, che sono dati pubblici. Ecco, in Argentina l'aborto resta illegale, è accennato a un movimento forte che ha dato prove importanti anche in piazza negli ultimi tempi. Ogni 5 minuti un adolescente diventa madre, c'è una crisi economica forte, e il reddito femminile rispetto alla media nazionale è inferiore del 27%, e 7 poveri su 10, ancora dati pubblici, sono donne. Quindi ecco i temi del disagio, rilanciati peraltro di recente da uno studio di un'università importante, penso all'Osservatorio del Disagio Sociale dell'Università Cattolica Argentina, che dice tra le altre cose che quasi il 14% dei minori va sostanzialmente a letto senza cena, che c'è un disagio sociale forte, però c'è anche una dimensione di genere che è al centro di questa iniziativa. Appunto, in realtà io ho scoperto poco, tante volte le notizie girano a livello internazionale, ecco, alcuni siti argentini importanti hanno rilanciato la notizia della nascita del sito. In Europa Radio France Internazionale ad agosto ha fatto un titolo, però ecco, in Italia non se ne è parlato affatto. Questo sito, appunto, invece che, come dire, schierarsi con una coalizione o con l'altra, fa un'analisi proprio candidato per candidato. Sì, candidato per candidato, ci sono voti che vengono attribuiti, assegnati da 1 a 6, più pallini si hanno, diciamo, meno in basso si sta o più in alto si sta, pallini rossi, gialli, azzurri. Ci sono promossi e bocciati in educazione sessuale, diritti riproduttivi, quindi ecco, non c'è evidentemente un sostegno a questo o quel candidato, però attraverso una serie di categorie che riguardano il diritto al lavoro, il diritto alla salute, tanti temi importanti, ecco, a ciascun tema è associato per ciascun candidato un voto, e quindi c'è la possibilità un po' di capire chi stia con chi alla vigilia di questo voto importante, raccontato evidentemente nel mondo, perché l'Argentina è un paese importante, perché l'America Latina, come ricordavi, sta vivendo un momento particolarmente delicato, drammatico. Pensiamo al Cile, pensiamo a quello che è accaduto solo pochi giorni fa in Ecuador, abbiamo letto, siamo stati anche, come dire, in Amazzonia a settembre, insomma, dopo settimane in cui abbiamo letto notizie sotto il segno della preoccupazione, del disastro ambientale. E dell'Argentina se ne è parlato nelle ultime settimane per i crolli del peso, per i rischi di default, quindi di fallimento, per i programmi sempre controversi, difficili, dolorosi di ristrutturazione del debito. Insomma, tu nel tuo pezzo, per dire, riporti anche alcune frasi dei candidati che sono state ovviamente segnalate dal sito. Quando si parla di donne si dice se ne stanno a bere il tè e poi vanno in pensione come lavoratrici domestiche senza pagare i contributi, oppure mia moglie brilla di più in casa, è un'ottima casalinga. Insomma, questi sono sentinelle, diciamo, di una cultura patriarcale che ovviamente riguarda anche molto l'Argentina. Però c'è uno spazio dedicato anche alle proposte politiche, cioè Femminindex avanza anche proposte politiche. Sì, assolutamente, una delle proposte chiave è quella per un progetto di legge per l'aborto libero e sicuro, dopo lo stop imposto dal Senato lo scorso anno a un progetto di legge di questo tipo. Ci sono proposte relative ai corsi di educazione sessuale nelle scuole, o ad esempio anche alla gratuità dei prodotti per l'igiene mestruale. Quindi c'è una parte propositiva, e l'impianto è questo, cioè sì, denunciare, certo, però denunciare come punto di partenza per costruire un paese che sia più inclusivo, dove ci sia un po' più di parità. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Sciogliete le righe prima della resa dei giornali. Il mercato dell'amore. No, non stiamo aprendo la parentesi feuilleton, ma parliamo di bordelli anticrisi. In Svizzera si combatte un mercato in calo con sconti su misura e pacchetti promozionali. Il 90% dei clienti arrivano dalla Lombardia. I locali a luci rosse sono legali e tassati. Prezzi speciali per gli italiani. Si sa, se c'è la crisi si tagliano per prime le spese voluttuarie, figuriamoci quelle voluttuose. Ne sanno qualcosa i locali a luci rosse del Canton Ticino, i cui clienti, appunto, secondo una statistica fai da te ma affidabile, sono il 90% italiani, hanno quindi meno soldi in tasca di un tempo. E i gestori reagiscono, e così a Lugano e dintorni fioriscono iniziative promozionali per rivitalizzare un mercato della prostituzione un po' moscio, posto ben inteso che nella Confederazione i bordelli, appunto, sono legali, regolarmente tassati. Così sabato si sono alleate per la prima volta due cattedrali del sesso come il Maxim di Chiasso e il Bambù di Lugano. Ogni cliente dell'una che si presentava nell'altro con il braccialetto comprovante l'avvenuta consumazione otteneva uno sconto su un'ulteriore mezz'ora di amore tariffario, 50 euro invece di 100. Insomma, paghi uno e mezzo e prendi due, con lo slogan malandrino: prima vieni da noi e poi da loro. Benché presumibilmente rivolta solo ai frequentatori più giovani e pimpanti, l'iniziativa ha avuto successo. Ne hanno usufruito una sessantina di clienti sui circa 400 di sabato. E ancora il Bambù, che è a 500 metri dall'Italia, cerca anche di contrastare la concorrenza del calcio, perché quando ci sono le partite in TV il locale si svuota. Così il 23, in occasione di Inter Borussia, la tariffa è stata scontata da 100 a 69 euro, cifra non tonda ma, come dire, evocativa. Anche qui successo. E poi i locali a ridosso del confine hanno due ulteriori vantaggi. Primo, sono coperti dalle reti telefoniche italiane, sicché quando la moglie fa la telefonata al marito con altre fanciulle affaccendato, gli risponde la segreteria telefonica in italiano e non in tedesco. Secondo, per arrivare a Lugano bisogna ostendere la vignetta dell'autostrada e quindi sottoporsi alle relative inquisizioni una volta rientrati a casa. E in ultimo, ma non per ultimo, la morte di al-Baghdadi. Il New York Times dice: tradito da una moglie. Infatti la soffiata sarebbe stata tradita da una delle spose. Su di lui una taglia di 25 milioni. Quella sposa la troveremo in Via Nazionale a fare shopping. Comunque la cosa non mi ha impressionato più di tanto, perché, come dire, morto un papa se ne fa un altro, ucciso un nemico se ne arriva un altro. Il New York Times dice anche c'è subito il nuovo, un nome anche lì arabo che non mi sfugge, e quindi avremo il prossimo nemico da sparacchiare sui giornali. Per al-Baghdadi poche lacrime, fede oro, il tiranno che ha causato 400 vittime in Europa, il più integralista dalla simpatia per Al-Qaeda fino alla creazione di uno Stato grande quanto la Gran Bretagna, appunto il Califfato Nero. E poi c'è Trump, ucciso il capo dell'ISIS, che esulta per il raid: il califfato è morto da vile, scappavi, piangevo. Ora, che sia una pratica della CIA, del Pentagono, uccidere i nemici e farli passare sempre per vili per non creare un mito, questo è già vero quando con Bin Laden parlarono di videoporno o altre cose. Ma insomma, diciamo, potrà anche essere molto discusso, anzi discutibile sicuramente, ma uno che si fa saltare in aria non è che è male, muore proprio da vile, muore da martire. Il racconto del presidente: si è fatto saltare in aria, ha ucciso 3 figli, il mondo è più sicuro. Non ne sono convinti più di tanto la Francia e l'Inghilterra, che temono vendette. Per cui il ministro dell'interno Christophe Castaner della Francia ha chiesto alle forze di sicurezza di alzare il livello dell'allerta terrorismo. Intanto Bosch esprime dubbi sul raid USA in Siria. Non siamo a conoscenza di alcuna presunta assistenza al passaggio dell'aviazione USA nello spazio aereo siriano, dice il ministro della difesa. Sarebbe morto al Baghdad, nelle sotterranee di Idlib. Questo è anche, cioè, l'allerta si alza negli Stati Uniti d'America. Devo dire che anche i commentatori intervistati oggi dai vari quotidiani dicono più o meno la stessa cosa. Per esempio Gilles Kepel, islamologo, esperto di Medio Oriente, dice: il terrorismo vivrà in rete nelle tante enclave salafite del pianeta, il pericolo saranno i lupi solitari pronti a colpire anche senza ordine. E ancora Robert Baer, l'ex agente della CIA, che mette in guardia l'Occidente: il successore sarà più pragmatico. Significa che la spinta terroristica diventerà più violenta. È successa la stessa cosa dopo la morte di Bin Laden. Quindi questo è quello che dice. Dice: gli effetti saranno gli stessi, qualcuno prenderà il posto di al-Baghdadi, così come al-Zawahiri è succeduto a Bin Laden. Il timore che accada ciò che è avvenuto dopo l'uccisione del fondatore di Al-Qaeda. Ha un'idea di chi sarà il nuovo califfo e risponde: sarà sicuramente qualcuno più efficace e pragmatico, o forse più razionale. Le atrocità compiute da al-Baghdadi hanno reso lo Stato islamico inaccettabile per la stragrande maggioranza dei musulmani, anche per alcuni di quelli allineati su posizioni più radicali. Sì, infine, disse giustamente l'analisi del Roberto Fabri del Giornale, per Trump è lo scalpo da usare per rialzare la testa elettorale, quindi siamo ancora agli scalpi, come la guerra agli indiani, ma nessuna novità. Chiudiamo con questo, vi salutiamo, parlando di Bologna e province, dove si discute e ci si preoccupa per i possibili effetti dell'introduzione della tecnologia 5G. Sappiamo che la sindaca di San Lazzaro, Isabella Conti, ha firmato un'ordinanza per bloccare l'installazione di antenne e la città metropolitana ha deciso di istituire un tavolo. I dubbi e le perplessità riguardano i possibili effetti sulla salute che la nuova tecnologia può provocare. E come conferma l'istituto Ramazzini, non ci sono studi di merito. Su questo ascoltiamo l'intervista al ricercatore Andrea Fornoli. E con questo vi salutiamo, l'appuntamento domani è sempre a stessa ora, ciao a tutti. Quello che possiamo dire come istituto Ramazzini è che al momento non ci sono studi sulle potenziali pericolosità del 5G, motivo per cui i Ramazzini da sempre è a disposizione per uno studio che vada nella direzione della prevenzione, chiaramente, quindi per andare a capire quelli che sono gli eventuali effetti tossici o eventualmente anche cancerogeni di questa nuova tecnologia. Noi in passato e abbastanza recentemente abbiamo pubblicato i nostri risultati sulla tecnologia 2G e 3G e quello che abbiamo visto è un aumento statisticamente significativo nei nostri animali da laboratorio di tumori molto rari che riguardano il cuore e il cervello, motivo per cui diciamo che questo rappresenta come un primo campanello d'allarme nei confronti di quella che è tutta la tecnologia legata alle compagnie della telecomunicazione in generale, e che quindi il messaggio che deve passare dal nostro punto di vista è che appunto bisogna eventualmente prima fare uno studio per valutarne la pericolosità, prima di introdurre una nuova tecnologia che si andrebbe a sommare e non, diciamo, andrebbe a sostituire quella che è l'attuale. Quindi questa è la nostra posizione. L'Istituto Ramazzini è a disposizione per fare un nuovo studio che vada a capire quelli che sono i potenziali pericoli della tecnologia. Ma sappiamo già quale sarà il cambiamento di concentrazione, di potenza delle frequenze delle onde con il 5G? Allora, la situazione è più complicata, nel senso che attualmente la tecnologia, cioè in realtà le tecnologie passate, quella del 2, 3 e anche le attuali del 4G e l'LTE, hanno sfruttato un certo tipo di frequenza che andava dalle centinaia di megahertz alle unità di gigahertz. Adesso la tecnologia che sfrutterà la quinta generazione, il 5G, riguarderà delle frequenze che sono più alte, che vanno dalle decine di gigahertz alle centinaia di gigahertz, e quindi si entrerà nel campo delle onde centimetriche e millimetriche, motivo per cui, come ho detto prima, c'è la necessità di uno studio su questo tipo di onde elettromagnetiche, che è completamente diversa rispetto alla precedente. Poi, per quanto riguarda un discorso di intensità, questa si prevede che vada nella direzione dell'aumento anch'essa, per via del fatto che saranno connessi molti, molti più oggetti in nostro possesso e non solo gli apparati della telefonia mobile, come fino ad adesso fondamentalmente. Poi, se non ho capito male, uno dei problemi è se queste tecnologie partono senza che vengano fatti degli studi prima, se poi ci accorgiamo che sono dannose, è un problema spegnerle. Esatto, esatto, questo è il motivo per cui Ramazzini dice prima studiamone gli effetti a livello di animali sperimentali, prima che appunto gli uomini stessi siano esposti e facciano loro, tra virgolette, da cavie. A Bologna si sta discutendo tanto sul 5G, la sindaca di San Lazzaro, Isabella Conti, 3 giorni fa ha firmato un'ordinanza per bloccare la collocazione di antenne. A Bologna non c'è ancora uno stop definitivo, secondo lei arriverà questo stop? Ah, questo non glielo so garantire, quello che so è che certamente l'Istituto Ramazzini è da sempre a disposizione per dare quelle indicazioni che noi riteniamo più opportune rispetto a questa innovazione. Quello che appunto diciamo è che come si è mossa la sindaca di San Lazzaro, sarebbe bene che si muovessero certamente anche le altre autorità competenti, perché chiaramente è sempre meglio prevenire che curare. Ecco, quindi prima uno studio che ci parli della sua pericolosità e dopo un'esposizione di massa come quella che si eventualmente prospetterebbe per il 5G, non il contrario. Ecco.